Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR, 16 collocata l'arca nel tabernacolo dell'alleanza e offerte le vittime, e benedetto da David il popolo, si fa un banchetto. Si ordinano i varg ministeri dei leviti dinanzi all'arca. Cantico di laude al Signore. Portarono adunque l'arca di Dio, e la collocarono in mezzo al tabernacolo eretto da Davide, e offersero olocausti, e ostie pacifiche dinanzi Dio. E quando Davide ebbe finito di offerire gli olocausti, e le ostie pacifiche, benedisse il popolo nel nome del Signore. E distribuì a tutti, uomini e donne, una porzione di pane, e un pezzo di carne di bue arrostita, e della farina fritta con l'olio. E pose in istazione dinanzi all'arca del Signore un numero di leviti, i quali esercitassero il loro ministero, e facessero commemorazione delle opere di Lui, e glorificassero, e laudassero il Signore Dio di Israele. Asaf il primo, e dopo di lui Zaccaria? E poi Jael, e Semiramot, e Jeiel, e Matatia, ed Eliab, e Banaia, e Obededom, Jeiel per suonare i salteri, e le lire, e Asaf per suonare i cimbali, e Banaia, e Jeziel sacerdoti per suonare in ogni tempo la tromba dinanzi all'arca del testamento del Signore. In quel giorno David fece Asaf primo cantore per lodare il Signore, e con lui i suoi fratelli. Date lode al Signore, e invocate il suo nome, annunziate le opere di lui alle genti. Cantate le lodi di lui al suono degli strumenti, e raccontate tutte le sue meraviglie. Laudate il santo nome di lui, il cuore di che cercano il Signore, sia nell'allegrezza. Cercate il Signore, e la sua virtù, cercate mai sempre la sua presenza. Ricordatevi delle meraviglie operate da lui, dei suoi prodigi, e dei giudizi, che i pronunziò di sua bocca. Figliuoli di Israele suo servo, figliuoli di Giacobbe suo favorito. Egli è il Signore Dio nostro, egli fa giudizio di tutta quanta la terra. Ricordatevi eternamente del suo patto, della parola intimata da lui per 1000 generazioni. Della parola stipulata da lui con Abramo, del giuramento fatto da lui a Isacco. Egli lo stabilì qual legge per Giacobbe, e come patto eterno per Israele, dicendo, «Io ti darò la terra di Canaan, che sarà vostro retaggio». Mentre egli non erano pochi di numero, piccolini, e in essa stranieri. E andavano pellegrinando d'un in altra nazione, e da un regno ad un altro popolo. Egli non permise che alcuno GL inquietasse, e per causa loro punì dei re. Non toccate gli unti miei, e non fate torto a miei profeti. Canta, o terra, per ogni parte laude al Signore, annunziate ogni giorno la sua salute. Notificate la sua gloria alle genti e a tutti i popoli le sue meraviglie, perché grande egli è il Signore, e degno infinitamente di lode, ed egli è da temersi sopra tutti gli dei. Conciò sia che tutti gli dei delle genti sono simulacri, ma il Signore creò il cielo. Egli è attorniato di gloria, e di grandezza, la fortezza, e il gaudio si trova nel luogo, dove egli risiede. Offerite al Signore, o famiglie delle nazioni, offerite al Signore la gloria, e l'impero. Offerite al Signore la gloria, che è dovuta al suo nome, presentate gli sacrifici, e venite al suo cospetto, e adorate il Signore nel magnifico suo santuario. Alla presenza di Lui si ponga in moto tutta la terra, perché Egli diede all'universo stabili fondamenti. Siano in letizia i cieli, ed esulti la terra, ridi casi tra le nazioni, il Signore è venuto nel suo reame. Rumoreggi il mare, e tutte le cose, che gli contiene, esultino le campagne, e ciò, che in esse si trova. Allor sarà, che le piante della foresta intuoneranno laude dinanzi al Signore, perché Egli è venuto a giudicare la terra. Date gloria al Signore, perché Egli è buono, perché la misericordia di Lui è in eterno. E dite, salvaci, o Dio Salvator nostro, e insieme raccoglici, di mezzo traendoci delle nazioni, affinché diamo gloria al santo tuo nome, ed esultiamo cantando i tuoi inni. Benedetto il Signore Dio di Israele dall'eternità fino all'eternità, e tutto il popolo dica, Amen e canti inno al Signore. Davide adunque lasciò ivi dinanzi all'arca del testamento del Signore Asaf, e i suoi fratelli, perché adempissero di continuo il lor ministero dinanzi all'arca di Perdì, secondo il lor turno. Obededom poi, e i suoi fratelli, in numero di 68, e Obededom tagliuolo di Ditun, e Osa li fece portinai. E pose Saduc sacerdote, e i sacerdoti suoi fratelli al servigio del tabernacolo del Signore, che era nel luogo eccelso di Gabaon, affinché offerissero continuamente, mattina e sera, olocausti sopra l'altare degli olocausti, eseguendo appuntino tutto quello che sta scritto nella legge del Signore prescritta ad Israele, e dopo lui Eman, e Iditun, e gli altri, che erano stati scelti, e notati per loro nomi a cantar laude al Signore, la misericordia del quale è eterna. E lo stesso Eman, e Iditun suonavano la tromba, e toccavano i cimbali, e tutti i musicali strumenti, cantando inni al Signore. I figliuoli poi di Ditun li fece portinaggio. E tutto il popolo se ne tornò alle case loro, come pur fece David, a fin di benedire la sua casa. Note, 16,7, fece Asaf prima cantore e ci ovvero, fece, che Asaf principiasse a lodare Dio col salmo, che segue. Asaf riceve questo salmo da David, e lo cantò con tutto il coro, di cui egli era capo. 16,8. Date lode al Signore. Questo salmo è diviso nel nostro Salterii, e una parte forma il Salmo 104. L'altra parte è il cominciamento del Salmo 95. La sposizione di esso si darà insieme con gli altri salmi. 16,39. E pose Sadoc sacerdote. Al servigio del tabernacolo e ci Sadoc era stato fatto sommo pontefice da Sol, e Davide conservandogli la sua dignità, determinò che Abiatar facesse le funzioni del suo ministero nel tabernacolo di Gerusalemme, Sadoc nell'antico tabernacolo di Gabaon. Così provvide alla pace, levando di mezzo ogni motivo di gelosia e di disturbo, facile a nascere tra due pontefi. 16,41. E dopo lui Eman e Iditun. Sembra che questi fecero l'ufficio di cantori a Gabaon, come pur sembra che i figliuoli di Iditun furono portinai a Gabaon.